ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. Intanto ci venivamo avvicinando a Talamone e una lancia con la sua brava bandiera a poppa ci muoveva incontro. Guardai col cannocchiale e vidi che erano dentro due uomini in uniforme. «Ecco la lancia della sanità!» dissi. «Bene!» rispose il generale. «Quando farò fermare e quando la scala sarà abbattuta, scendete voi e fatevi sentir parlare toscano e fate che gli ufficiali che sono nella barca montino a bordo e vengano qui da me». Mi posi vicino alla scala e aspettai. Poco dopo, la voce del capitano Castiglia gridò al macchinista «Arretè!». Tosto la scala s'abbassò e la barca venne a fermarsi a piè della scala. C'erano dentro un ufficiale di sanità e un tenente dell'artiglieria da costa, due poveri vecchi impresciuttiti e logori che, sommando i rispettivi lunari, potevano mettere insieme gli anni di Matusalemme. E dissi «Evviva, signori!». Si scopersero il capo e mi porsero la mano. Sentii che tremavano come foglie e ripresi. «Vedano, son due legni italiani su cui sventola la bandiera di Sua Maestà il re Vittorio Emanuele. A bordo c'è un luogotenente generale che mi ha dato ordine di farli salir su». I due vecchi alzarono gli occhi e videro la bandiera che si è rissata in quel punto, ma nel veder la bandiera videro anche il ponte pieno di camicie rosse. «Oimè», disse l'ufficiale di sanità, «quell'uniformi rosse sono abiti da viaggio», risposi. «Del resto, guardino quest'uniforme mia e quella di quei signori che stanno su in cima alla scala. Vengano, non abbiano paura, il signor generale li aspetta». Così dicendo, li presi ad una alla volta per la mano e li trassi sulla scala, ma più morti che vivi. Appena posero piede sul ponte e videro tutta quella rossa, grazia di Dio che c'era, mi guardarono in faccia stralunati, quasi per dimandarmi se fossero caduti in mano dei corsari e per dirmi «Ti ringraziamo, bel chiacchiero!». Non seppi tenermi da ridere e feci loro strada fino alla cabina del generale e ne apersi la porta dicendo «Ecco, generale! Il comandante del porto e il comandante della fortezza di Talamone che vengono a ricevere i suoi ordini». Garibaldi li salutò con infinito garbo e, data loro familiarmente la mano, disse loro: «Io sono Giuseppe Garibaldi, generale, come sapete, che debbo compiere una missione che molto sta a cuore al re, ma che deve essere condotta a termine senza che si sappia che egli vi prestò mano. Perciò non posso presentarvi alcun ordine scritto, ma vi dico, e potete crederlo, che qualunque cosa facciate per aiutare la mia impresa sarà utile alla patria e sarà volta al servizio del re». I due galantuomini si guardarono in faccia l'un l'altro e si provarono a balbettare qualche parola, ma la voce fece loro cilecca e rimase la bocca aperta. Allora il generale mi fe segno che chiudessi l'uscio della cabina. Obbedii e li lasciai soli. In quel mentre, da un gruppetto di volontari che s'accalcava a pochi passi di lì, udii chiamarmi da una voce conosciuta. Mi avvicinai e mi disse: «A che gioco si gioca, per Dio? Che cosa significano queste bandiere con lo scudo di Savoia in mezzo?». Il compagno che mi interrogava era un lombardo del quale non ricordi il nome. «Che vuoi tu che sappia?» risposi. «Le ha fatti stare il generale e su quel che fa lui non ci si sputa». «Al solito», saltò su il lombardo, «dobbiamo sempre essere pecore e lasciarci condurre come le pecore? Per Dio non va bene, no, no, no!». Qualcuno degli astanti dette ragione al lombardo, ma i più tacquero, notando chiaro col loro silenzio che quelle due povere bandiere non erano tali da metter fuoco ai loro scrupoli. Allora io dissi: «Fratello, non è questo il momento di occuparsi dei cenci e della politica cenciosa. Noi andiamo a batterci per l'Italia e la bandiera che a Garibaldi piace deve essere la nostra. Chi è mai a bordo di questi due legni che abbia diritto di fargli il sopracciò? Per conto mio gli vado dietro ad occhi chiusi». Il dispettoso seguitò con maggior foga che mai ad arringar le turbe, ed io gli volsi le spalle e me ne tornai alla cabina del generale. 10 minuti dopo l'uscio della cabina s'aperse e i due comandanti di Talamone scivan fuori rossi in viso come gamberi cotti e con gli occhi pieni di lacrime. Ambedue mi presero per mano e mi dissero: «Oh, che uomo, che uomo! Oh, che onore per noi! Glielo dica anche lei, caro tenente, glielo dica che faremo tutto quel che vuole e che tutto quanto è in Talamone lo consideri come roba sua». Garibaldi escì anche lui dalla cabina, scese nella lancia della sanità e andammo a terra tutti insieme. Thank you. abitanti di Talamone non toccavano le 300. Il paese è squallido e la malaria non invita ad abitarlo. C'erano di stazione 10 o 12 cannonieri e alcune guardie di finanza. Tutta questa gente ci guardava con tanto d'occhi, né capivo un'acca di quella strana apparizione. Era suonato da un pezzo in mezzogiorno ed eravamo tutti digiuni, come se avessimo a cantar messa. Fruscianti, che nella famiglia del generale poteva considerarsi come il maestro di casa, venne a dirmi: «Ehi, pensiamo un po' a far mangiare il generale a mangiar noi. Pensa tu che sei in casa tua a trovare qualcosa». Ci mettemmo in giro. In Talamone non c'era che un'osteria anonima, annunziata al rispettabile pubblico e all'inclita guarnigione dalla modesta insegna di una frasca appesa sulla porta d'ingresso. Nell'osteria c'erano due donne. Mi volsi a quella che, per l'età sua, aveva aria di essere la massaia, e le chiesi: «Buona donna, che dareste da desinare al generale Garibaldi?» «Benedetto lei», rispose lo stessa, ravviandosi intorno ai colli fisciù, «che vuol che gli dia? In questo paese ci si trova a malapena l'olio santo. O che ci avete lì sul fuoco? Nulla, c'è un po' di carne nella pignatta per far la minestra per noi. E per il generale dunque non avete nulla, proprio nulla, nulla, nulla? Che dirà il mondo, buona donna, quando si saprà che Garibaldi ha digiunato in Talamone peggio che se fosse nel deserto?» «Guà», ripigliò lo stessa, «se si vogliono adattare e posso dargli quello che sarà preparato per noi, ma è pochino, pochino». Accettai l'offerta e Fruscianti pose il visto all'accettazione e, dato ordine di apparecchiare per 8, suggerì allo stessa d'allungare i brodi a misura che erano cresciuti i frati e di mettervi dentro qualche fetta di prosciutto e un bel cavolo, se ce l'aveva, e ammannire così una buona minestra di riso. Poi le dissi: «Vedo dei fagioli cotti e voi conditeli intorno all'esso e, per coronar l'opera, fateci due frittate con le cipolle e il diavolo non ci parrà brutto quanto parrà a voi». La donna sorrise e si pose tosto all'opera, assicurandomi che se avesse avuto notizia del nostro arrivo i giorni innanzi non l'avremmo trovata con le mani in mano. L'ingenuità dello stessa piacque a Fruscianti, il quale le disse: «State pur certa che al ritorno vi faremo avvisata 24 ore innanzi per la posta e voi ci farete trovar pronti i capponi». Non era scorsa un'ora da questo dialogo che il generale sedeva a tavola meravigliandosi di trovare un tanto lauto e gustoso pranzo in un paesello delle Maremme, e nel mangiare pigliò gran gusto a far discorrere le due donne e ci disse parecchie volte: «Sentite come parlan bene, è una delizia sentirle». E ricorda ancora che si lodò molto dei maremmani e rammentò che i maremmani nell'anno 1849, mentre i tedeschi lo cercavano a morte, gli avevano salva la vita. Verso le due tutti i volontari sbarcarono a terra e si cominciò a formare le compagnie, dividendo i fanti da coloro che dovevano essere cavalieri e ordinando tutto il bisognevole per prepararci a scendere in Sicilia in buon assetto e non come un branco di scorridori. Garibaldi ci passò in rassegna e chiamò ad uno i comandanti delle compagnie, raccomandando loro la disciplina ed esortandoli a far capire ai loro uomini che tutta Italia aveva volto gli occhi su di noi. Che furono le righe si sparsero per il paese con terrore infinito di tutte le femmine, le quali credettero vedere in essi tanti romani al ratto delle Sabine. I poveretti, stanchi del mare e del riposo forzato, appena messo piede a terra s'eran sentiti leoni e giravano qua e là e facevano capolino per le case e dicevano paroline dolci e davano occhiate di fuoco e arrisicarono, se non smentisce la fama, qualche pizzicotto. Oltre a ciò, scontenti per non trovare in quel paesucolo né vino né pane né altre robe in quell'occasione desiderabili e desiderate, brontolavano fieramente accusando di voler nascondere il ben di Dio come se si trattasse di croati. Nacquero liti e tafferugli senza fine, e siccome il generale era tornato a bordo del Piemonte, così il colonnello Tur si provò a far quietare il chiasso, mandando in volta con severi ordini tutti gli ufficiali e specialmente quelli che vestivano uniforme. il rimedio fu peggiore del male, e 2 o 3 volte ci trovammo alle brutte, giacché nel numero dei 1000, se c'era fior di gioventù e fior di gente coguanti, c'era ancora un buon pizzico di scorbellati, a contentare i quali sarebbe stata poco santa Verdiana da Certaldo, che dava da beccare alle serpi. A una certa ora, veduto che gli scorbellati si ribellavano e mettevano a punto, me ne andai sul Piemonte ed avvertii di quanto accadeva il generale. Ed ei mi disse, guardandomi torvo, «Come? Avete le sciabole al fianco e non siete buoni a far obbedire i miei ordini?» Salutai in silenzio e tornai a terra e riferii a Tur ciò che mi aveva detto il generale. Stefano Tur alzò gli occhi al cielo e, radunati 7 o 8 ufficiali, si mise in mezzo al bailame, ma fu lo stesso che dire al muro, anzi, e fu peggio, perché il muro sta cheto e fermo, mentre la turba degli impronti vociava e minacciava. Il paese era sossopra, le donne berciavano, gli uomini taroccavano, si sarebbe detto che in Talamone era entrato Aiace Talamonico per combattere i troiani. E che potevamo fare in 7 o 8 quanti sera? Avevamo a mandare a gambe per aria qualcuno? Ripigliai il mio canotto e tornai a bordo. Clemente VII Papa, rivedendo Benvenuto Cellini dopo un omicidio commesso, lo guardò, come in arra, con l'occhio del porco. Ma Garibaldi, vedendomi tornare, mi guardò con gli occhi del cinghiale. «Ancora!» gridò, buttando via il pezzo di sigaro che aveva in bocca. «Sì, generale, venga ancora da voi e venga a dirvi che se ci comandate di ammazzar qualcuno e di farci ammazzare, obbediremo. Ma in caso contrario, se non venite a terra voi, non si fa nulla». Credetti che Garibaldi volesse saltarmi addosso, ghermirmi e buttarmi in mare, ma la furia che gli balenò negli occhi fu un vero lampo. Si cinse la sciabola, saltò con me nel canotto e pigliammo subito terra. Adesso io piglierei volentieri in prestito da un poeta classico un paragone per dirvi, o lettori amici, come rimasero e come allibirono tutti i signori impronti quando Garibaldi comparve improvviso in mezzo a loro e con voce tonante disse quel che non vò ripetere, e poi gridò «A bordo tutti!». In un batter d'occhio il paese fu deserto, le barche parean poche per tanta gente, e vogavano come razzi. Verso sera non c'era in Talamone l'ombra di un garibaldino, eccezion fatta di quei pochissimi che dal generale ebbero la facoltà espressa di rimanervi. Io dormii saporitamente nel castello e pagai 2 lire a un cannoniere e la sua branda, che mi parve più dolce, salvando la compagnia, del letto d'un pascià. La mattina seguente Garibaldi visitò per tempissimo il castello di Talamone, dove erano alquante vecchie artiglierie, e di queste ne scelse 2, una delle quali era un cannone di ferro, e l'altra una bella colubrina di bronzo lunga lunga, fusa, come si leggeva in un'iscrizione incisa sulla culatta, da Cosimo Cenni, fiorentino, nell'anno del Signore 1600 tanti. Dopo qualche ora giunse da Orbetello un ufficiale d'artiglieria, recandoci 2 pezzi da campagna e non so quanti cassoni di cartucce ed una certa dose di polvere. Tutta questa roba venne subito repartita su 2 vapori e parve a tutti che ce la mandasse la provvidenza. Ma Garibaldi non credette di avere ancora nelle mani il fatto suo, perché, dopo aver ordinato ai commissari che procacciassero viveri ed utensili per cucinare a bordo ed altre cose che gli parvero indispensabili, mi chiamò e mi disse «Andate subito a Orbetello e vedete se il colonnello Giorgini ha da darci qualche altra roba. Ditegli che siamo corti a capsule fulminanti, che ci occorre qualche marmitta e non ci sarebbe di scaro qualche fucile, magari vecchio, che abbia per caso nei magazzini. Diteli poi tante cose in mio nome e confortatelo a non vacillar nella fede. Oh, badate bene di non pernottare in Orbetello, perché può darsi che io parta nella serata». Uscii per procurarmi un calesse e mentre scendevo le scale incontrai lo Zambianchi armato fino ai denti con un gran fucile a 2 canne ad armacollo, pugnale e pistole e il solito berretto rosso in capo. Chi l'avesse incontrato in un bosco si sarebbe fatto il segno della croce e avrebbe cercato di farsi piccin piccino per appiattirsi in un cespuglio. Gli domandai come e perché non fosse ancora in viaggio per Perugia e mi rispose: «Lascia fare a me. Abbiamo cambiato il piano di guerra, ma entrerò in campagna stasera. Tu, che hai voluto fare il furbo, sarai a patire il mal di mare e il vecchio Zambianchi schioppetterà in tanti papalini. Però ti voglio bene, giacché devi essere un buon ragazzo. Dammi retta, vieni con me, sei ancora in tempo. Adesso lo dica al generale e sarai mio luogotenente». No, ti ringrazio tanto», dissi trattenendolo. «Trovati pure un altro luogotenente e lasciami essere tamburino, ma a fianco del gran vecchio». Zambianchi volle seguitare a battere, ma io gli augurai buongiorno e il buon anno e tirai di lungo. Fu un certo signor Adami, che per caso passava in calesse per la piazza, che mi prese gentilmente seco e mi offerse di condurmi in Orbetello, e in 4:48 mi ci condusse. Quando tornai a Talamone era notte, e il tempo cominciava a farsi buzzo. I due vapori non erano più al solito posto, ma s'eran tirati alquanto a largo. Mentre aspettavo una barca che mi portasse a bordo, ecco accostarmisi un pover'uomo, tutto cenci e smunto come il Battista nel deserto, che mi dice: «Sono ufficiale, mi dia qualcosa per sua carità». «Come? Chiedi la carità a me, che ho già fatto testamento e mi son fatto ungere? Che vuole? Le febbri m'hanno strutto e non si trova da lavorare. Creda in Dio che ho fame e non ho un picciolo in tasca. Son venuto da Orbetello stamane e non ho trovato da sdigiunarmi». Rammentai in quel punto la scena dell'Elisir d'amore, dove il sergente dice a Nemorino, matto per amore e per non aver denaro: «Se denari non hai, fatti soldato». E chiesi al pover'uomo: «Hai moglie? Hai figliuoli? Né figliuoli né moglie? Allora, caro mio, morire per morire, l'è meglio morire da bravo con noi che crepar di fame. Almeno ti metteranno in musica». «Ha tu paura delle palle?» Il maremmano fe cenno che no. «Allora», soggiunsi, «monta meco su questa barca e da ora in poi sarai soldato di Garibaldi». «Viva Garibaldi sempre!» esclamò il disgraziato, non più disgraziato, e mi seguì. Si chiamava Beccarelli ed era bracciante. Vogammo verso il Piemonte. Tutti i lumi erano spenti e regnava a bordo un silenzio così profondo che si sarebbe sentita la tromba d'una zanzara. La sentinella mi riconobbe e fu abbassata la scala. Appena fui salito, mi venne incontro Fruscianti dicendomi: «Se non hai gran bisogno di vedere il generale, non andare a disturbarlo. Si è chiuso in cabina e non vuol vedere nessuno. Dacché lo conosco, e sono ormai tanti anni, non l'ho mai veduto così nero come stasera. Figurati che aspetta che tornino i commissari di guerra per farli buttare in mare. L'ha detto ed è capace di farlo, eh? Oh, con lui non si scherza, eh?» Non avevo mai veduto Garibaldi con la mosca al naso, né avevo gran voglia di vederlo, pure era necessario che io gli rendessi conto della mia ambasceria e lo avvertissi che le robe consegnatemi da Giorgina Orbetello sarebbero giunte di buon mattino. Per la qual cosa mi parve il caso di dover fare di necessità virtù, e ordinata la mia recluta che mi seguisse col fagotto delle capsule, presi in braccio il cestino delle frutta secca e picchiai pian piano all'uscio della cabina. Una voce cupa cupa rispose: «Chi è?» Apersi risolutamente mi feci vedere rispondendo: «Sono io, signor generale». La parola «signore» stia a dimostrare la gran paura che avevi in corpo nel presentarmi per la prima volta non a Garibaldi sorridente e benevolo, ma a Garibaldi in burrasca. «Che cosa volete da me?» soggiunse l'iracondo guardandomi tutto accigliato. «Volevo dirle, signor generale, che sono stata a Orbetello e che Giorgini m'ha dato schioppi, sciabole, trombe, marmitte e anche un po' di polvere, roba tutta che venne caricata su 2 o 3 barrocci e sarà qui innanzi giorno. Le capsule non le aveva, ma le ho chieste al maggiore dei bersaglieri, che m'ha dato queste poche. Dice il maggiore che...» «Che cos'ha da dirmi il maggiore?» interruppe in tono sempre più burbero il generale, cui occhi mettevano faville. «Si raccomanda che non li si portino via i bersaglieri. Il colonnello, poi...» «Anche il colonnello!» gridò Garibaldi, picchiando con la mano aperta sul tavolino. «Finitela, per Dio!» Cominciai a sentir freddo. Deposi ai piedi del tavolino il paniere della frutta e balbettai tremando: «E comanda nulla da me?» Mi rispose con un gesto d'impazienza che voleva dire: «Vattene». Ond'io salutai inchinandomi e fui sollecito a saltar fuori. Ritrovai Frusciante, il quale mi disse che il malumore di Garibaldi era cagionato dal ritardo dei commissari a portargli a bordo le vettovaglie, ritardo che gli impediva di mettersi in viaggio nella serata come aveva fisso. I commissari avevano cercato di scusarsi ed egli non aveva voluto sentir ragione, anzi, pigliando per pretesti le loro scuse, era salito in gran furia e aveva giurato che i due negligenti, se non facessero il dovere loro innanzi giorno, capitombolerebbero in mare. Seppi poi, dallo stesso, che nelle ore della mia lontananza da Talamone erano accadute cose grosse. Per causa di certi screpanti mazziniani che avevano tentato metter male fra i volontari, dicendo che Garibaldi, con lo spiegar bandiera regia, aveva mancata ai suoi patti e si preparava a venderci tutti alla monarchia insieme ai siciliani. Gli screpanti suddetti ne facevano un caso di coscienza e avrebbero sacrificato volentieri alla questione d'un cencio la bella impresa nostra. Ma con Garibaldi c'era poco da mordere, e i loro denti non morsero. Tutto il gran chiasso era finito con due o tre parole dure del generale, con la partenza di tre o quattro puritani che, vista la mala parata, se ne andarono chiotti chiotti e portarono non so dove i loro santissimi sdegni, lasciandoci quieti e tranquilli, con l'amor d'Italia nel cuore e con la croce sabauda spiegata sulle nostre teste. Saputo quanto volli sapere, pensai alla fame della mia recluta e le posi innanzi alle bramose canne due o tre gallette e una borraccia piena di rum allungato con l'acqua. E mentre mangiava gli dissi: «Ecco, la sacchetta con la mia poca roba, mettila d'armacollo. Ecco, questo bel pugnale, infilzatelo nella cintura. Ricordati che non devi perdermi mai d'occhio e devi intendermi senza ch'io parli ed obbedirmi senza aprir bocca. E se mai tu ti mostri poltrone, sappi che invece d'andare in musica andrai ai pesci». Ora, siccome ho fatto cenno d'un mio pugnale, debbo dire che quel pugnale, vera lama di Toledo, e inguainato in una guaina di velluto rosso, me lo regalò nel partire il mio carissimo Vecchi, che possedeva molte armi antiche e che vuotò il suo museo per regalare a tutti i più intimi un ricordo. Noto questo fatto perché sta a paio con un altro fatto. Quando Vecchi m'ebbe regalato il pugnale, gli dissi: «Amico, voglio un altro favore da te. Piglia questa mia lettera e fa che giunga, appena saremo partiti, nelle mani del re». «Come?» esclamò il Vecchi meravigliando. «Tu hai scritto al re?» «E gli ho scritto», risposi, «non per altro che per dirgli che, lasciando così come l'ho lasciato il mio reggimento, non ho inteso far torto al dovere del galantuomo che giurò fede alla sua bandiera. Non permetta egli dunque che mi si dichiari disertore e mi si condanni come tale, perché la bandiera dai tre colori che lasciai in Alessandria sventola ancora sul mio capo e non l'abbandonerò che morendo». L'amico non trovò cattiva la mia idea, pigliò la lettera e promise che verrebbe mandata al suo destino. Ed egli mantenne la promessa, e il re mi volle bene, e firmò la mia dimissione nel giorno 15 maggio, nel giorno stesso in cui caddi ferito sul campo di Calatafimi, cioè nel giorno in cui Garibaldi aveva divulgato per la prima volta il suo felice motto «Italia e Vittorio Emanuele». La notte passò quietissima, tranne il rumore indispensabile che dovette farsi nel trasportare a bordo ai due legni le provvigioni tanto vivamente desiderate dal generale. I due commissari respiravano e potevano ritenersi salvi, ma la paura fatta loro da Garibaldi era stata ben grossa e non poteva scuotersi in un baleno. Comunque fosse, la gran burrasca era passata, e i quarti dei bovi, e i caci maremmani, e le corbe del pane, e i barili del vino erano sul cassero, e i regali del colonnello Giorgini aspettavano su barrocci in riva al mare che s'andasse a pigliarli. A primi chiarori dell'alba, Garibaldi escì fuori tutto avviluppato nel suo poncio. Mi dette l'idea d'un leone che escisse dall'antro, e non ebbi voglia di accostarmi a lui senza che mi chiamasse.